X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Ennio Doris, 76 anni, di Tombolo, provincia di Padova, sposato, 2 figli e 7 nipoti. Nato povero, figlio di contadini, oggi uno degli uomini più ricchi d'Italia. Nell'82 fonda la banca Mediolanum, di cui è presidente e principale azionista. Mediolanum è una delle istituzioni più innovative e importanti del paese. È stato il primo banchiere al mondo a fare il testimonial della sua banca. Poi il testimone è passato al figlio. Ecco, signor Doris, adesso la banca non è più intorno a lei, ma è intorno a suo figlio. È difficile il passaggio del testimone? Direi che è stato abbastanza naturale, perché nel momento in cui ho fondato la banca ho pensato a qualcosa che mi sopravvivesse e possibilmente che mio figlio avesse la voglia e la capacità di farlo. Ed è stato così. Esatto. Beh, senta, ma quando ha capito che nella vita avrebbe fatto il banchiere? L'ho capito quando ho incominciato a fare il promotore. Lì l'ha capito. Si ricorda il momento esatto in cui è scoccata la scintilla? Certo, era una sera a casa di un falegname. Gli ho proposto un investimento di 10 milioni. Era notte, mezzanotte. Quando lui lo ha fatto, mi ha consegnato l'assegno, mi ha detto: signor Doris, sa che cosa le ho dato? Sì, 10 milioni. No, si sbaglia, mi dice. E io: guarda, ma sono 10 milioni, lei non ha capito, mi ha fatto vedere la mano destra e gli ho dato questa. Aveva dei calli mostruosi e mi ha detto: si ricordi che io sono una persona che non può permettersi il lusso di ammalarsi, perché altrimenti la mia famiglia non vive. Quella sera là ho capito che bisognava fare qualcosa di diverso che vendere semplicemente un prodotto. Senta, lei dice che soprattutto bisognava trovare un imprenditore, però, per fare il banchiere, capace di capire da che parte soffiava il vento. Insomma, uno come Berlusconi bisognava trovare. Esattamente. Ma mi dice la verità dell'incontro con Berlusconi? Fu davvero il frutto del caso questo incontro a Portofino? Davvero così? Fu il frutto del caso proprio. Io vidi una sua intervista su Capital. C'era la sua copertina. Nell'intervista, alla domanda che suggerimento darebbe uno che vuole fare l'imprenditore, lui rispose: che mi contatti. E io ho pensato: questo lo ha fatto per me. Un mese dopo, proprio casualmente, me lo sono trovato di fronte. Ma ero preparato. Era preparato. Però quell'idea che io gli esposi allora, sì, l'avevo già in parte realizzata dove stavo lavorando. Quindi gli ho proposto qualcosa. Una cosa già fatta. Già fatta. Senta, ma se nel 2017 un giovane avesse un'idea vincente come la sua, cosa dovrebbe fare per realizzarla? La prima cosa è mettersi alla prova e incominciare a realizzare quel poco che può fare da solo. Iniziare. Dopodiché può presentarsi da qualcuno. Al Berlusconi di turno, a Portofino, esatto. Al Berlusconi di turno. Ma lo trova? Cioè, voglio dire, ne vede in giro di Berlusconi? Che sanno allora vedere e ascoltare? Un Berlusconi è difficilissimo trovarlo, irripetibile. Però se uno ha già realizzato qualcosa che comincia a funzionare, è molto più facile. È possibile. Senta, Doris, ma quando nel giugno del 97 nasce la banca Mediolanum, lei era sicuro che avrebbe avuto successo o era un pazzo che tentava un azzardo? No, ero assolutamente tranquillo che avrebbe avuto successo. No, glielo dico perché Berlusconi ha raccontato che quando l'ha presentata a sua moglie Veronica, gli ha detto a Veronica: ti presento uno che è più pazzo di me, è vero? È verissimo, perché io gli dissi: noi faremo un'impresa che raccoglierà 1.000 miliardi all'anno. Sono 500 milioni, ne stiamo raccogliendo 5 miliardi, quindi 10 volte tanto. Aveva ragione. Senta, ho letto che secondo lei ogni affare ha bisogno di 3 elementi. Quali sono questi elementi? Beh, guardi, occorre che ci sia l'interesse proprio, l'interesse della controparte e che sia possibile. Deve essere un affare per tutti e due. Per tutti sempre. E due, sempre. Ecco, ma in un contesto difficile come quello di oggi, Banca Mediolanum, a giudicare dai numeri, se la cava e se la cava bene. Qual è il segreto? Il segreto è sapere che se tu riesci a fare l'interesse del cliente e lo metti al centro, allora il cliente ti riconoscerà. Verrà dietro. Ecco, adesso ci sono però i robot advisor e la consulenza finanziaria è affidata anche a degli algoritmi e non alle persone. La spaventa questo? Assolutamente, è uno strumento molto utile per chi consiglia i clienti. L'intelligenza artificiale non sostituirà mai l'essere umano, lo aiuterà. Lei dice che bisogna saper comunicare, appunto, essere in mezzo all'esercito, cioè gli strumenti tecnologici ok, ma poi la persona. Certamente, in mezzo all'esercito vuol dire in mezzo ai clienti e ai propri collaboratori, per capire la situazione e quindi dare le soluzioni corrette. Senta, oggi le banche sono vissute come predatrici, violente e egoista. Se lo meritano? In parte sì, ma in parte no. Essendo vissute per decenni in una situazione di monopolio, senza concorrenza, hanno esagerato. Esatto. Senta, ma questa turbofinanza speculativa che ha dominato in questi anni è arrivata al capolinea o no? Quella del passato è arrivata al capolinea. Adesso ce n'è un'altra. E prima o poi arriverà qualcosa d'altro. Ricomincia sempre, cioè finita una bolla ne comincia un'altra. Sicuramente. No? Sempre così. È sempre così perché l'essere umano va avanti, i regolamenti arrivano dopo naturalmente. Certo. Senta, qual è la filosofia di questo modo di fare banca secondo il film Wall Street? Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. A volte vinci, a volte perdi, ma continui a combattere. E se vuoi un amico, prendi un cane. Questa è guerra di trincea, sprint. Questo è Gordon Gekko nel film Wall Street. Ecco, chi è oggi Gordon Gekko, secondo lei? Non so chi sia Gordon Gekko oggi, ma è una filosofia assolutamente sbagliata. Però diffusa. Diffusa, ma che ha successo nel breve, nel lungo si paga. No. Il suo modello di banchiere, invece, lo ha detto lei molto spesso, è l'italo-americano Giannini che ha fondato la Bank of America. Perché il suo modello? Perché Giannini, quando ci fu il terremoto a Los Angeles, mise il banchetto sulle macerie e disse: io sono qua pronto a finanziarvi la ricostruzione, perché quando dai il denaro a gente povera che ha voglia di fare non perdi mai. Sicuramente lo restituisce. Sempre. A costo della vita. A costo della vita. Ma il contadino che c'è in lei, cosa le ha lasciato che le è servito a fare il banchiere a modo suo? Guardi, la terra è qualcosa di molto solido, sì, e che rimane nel tempo. Quindi i rapporti duraturi ci sono se tu fai il bene del tuo interlocutore. E questo gliel'hanno insegnato i suoi genitori? Certamente. Ah, papà e mamma? Papà e mamma. Senta, lei ha scelto e selezionato moltissime persone. Cosa cerca prima di tutto in un collaboratore? Allora, primo, deve essere intellettualmente onesto, deve avere dei valori, poi deve avere voglia di fare, e lo vedi dal suo curriculum. E si fida più dell'istituto o del curriculum? Bisogna mettere le due cose insieme. Il curriculum molto importante, poi bisogna parlare e guardarlo negli occhi. Negli occhi. Ma lei le società di selezione le ascolta poco? Oppure? No, le ascolto. Esaminano, fanno un lavoro prima. Di base, preparazione. Sì, sì. Ecco, ma il sistema bancario italiano oggi scricchiola, no? Sì. È in crisi. È in crisi, certamente. Profonda. Profonda, è un momento di grandissima trasformazione, perché la tecnologia, dopo 5 secoli in cui il modo di distribuire i servizi era la presenza fisica di uno sportello, la tecnologia lo sta distruggendo. E infatti lei dice praticamente le filiali delle banche faranno la fine delle cabine telefoniche. Questo è poco ma sicuro. Anche i bancari. No. Sì, il bancario inteso con il vecchio modello, perché di un bancario esperto che guida i clienti nelle scelte di un mondo sempre più complesso, ce n'è grande bisogno. Senta, lei però recentemente ha detto occorre tranquillizzare le persone, perché altrimenti le banche chiacchierate, e ce ne sono molte, non possono salvarsi. Pensa che il governo le ha tranquillizzate le persone? Solo parzialmente, perché è vincolato da questa legge che io considero folle del bail-in. Adesso ci arriviamo, infatti, ecco, a parlarne. Per cui è difficile dare la tranquillità totale. Ma perché pensa che è folle il bail-in? Perché vede, il patrimonio di una banca è la fiducia. La gente deve avere la certezza che non perde i suoi soldi. Sì. Se tu cominci a dire puoi perderli, non hanno strumenti per capire. Ma la responsabilità dell'investitore lei non la vede, del piccolo investitore, no? No, perché il piccolo investitore non è il suo mestiere, no. Non è il suo mestiere, fa un mestiere diverso. Si fida. Ma guardi, quando un fornitore di un mobilificio, un falegname, sa tutto del legno, sa che rischia. Quando quel falegname là ha dei soldi e li porta in banca, non sa della banca quello che sa del mobilificio. Certo. Non può essere trattato nello stesso identico modo. Certo, però... Il ministro Calenda invece dice che il principio del bail-in è sacrosanto. Si sbaglia? In parte si sbaglia, nel senso che lì, quando una banca va male, è giusto chiuderla, ma bisogna salvare quelle che sono le categorie più deboli, che sono i risparmiatori che non possono essere esperti di finanza e i dipendenti che non hanno esperienza. Si puniscono gli azionisti, si puniscono i dirigenti che hanno portato la banca in quella direzione. Però non capita mai, guadagnano solo sempre di più. Questo, vedi, quindi è realizzato male. Senta, a proposito di questo, di difficoltà, una delle banche più in difficoltà è il Monte dei Paschi. Sì. Senta cosa mi ha detto Renzi a novembre, quando era ancora presidente del Consiglio. Il 22 gennaio ha detto: il Monte dei Paschi è risanato, adesso investire è un affare. Lo penso tuttora e credo che se ci sarà un investitore internazionale o italiano che vorrà investire sul Monte dei Paschi farà un affare. È stato un errore grave parlare così? In parte, perché se in quel momento il governo avesse detto: i depositi nel Monte Paschi sono garantiti dallo Stato, tutte le dichiarazioni successive erano giuste, perché il Monte Paschi non avrebbe perso tutti i clienti. Ma ne ha persi tantissimi. Sì. Perché? Perché non l'ha detto? Perché non poteva dirlo, perché l'Europa glielo aveva impedito. Senta, ma quante sono le banche chiacchierate, secondo lei? Abbastanza. Ma quante? Beh, alcune decine almeno. E quali? Ma guardi, non voglio fare nomi perché sono sui giornali di tutti, ma naturalmente un po' le più piccole hanno difficoltà, ma come Monte Paschi anche qualcuna di grande. Senta, signor Doris, è vero che dal 2020 in poi il 95% delle operazioni bancarie non saranno più eseguite nelle filiali? Probabilmente non dal 2020, un po' più tardi, ma sarà il destino inesorabile questo. Ecco. Ma le regole introdotte e imposte dall'Europa sono servite a limitare i danni o hanno solo complicato la vita alle banche e ai risparmiatori? Hanno complicato molto la vita. Soprattutto? Perché, sì, perché attraverso il bail-in e attraverso la richiesta di imporre questo aspetto qua hanno rovinato tutto. Perché altrimenti i clienti che ha perso il Monte Paschi, i clienti che hanno perso altre banche, non li avrebbero persi. Cioè, noi ne abbiamo beneficiato, ma certo, io vorrei beneficiarne perché offro servizi migliori, non perché temono perché di perdere i soldi. Certo. E scappando, una banca in difficoltà, La distruggono. Ma voi ne avete beneficiato molto. Noi ne abbiamo beneficiato, ma il paese no, e quindi questo mi dispiace. Senta, è vero che quando c'è stato il fallimento della Lehman, lei aveva spinto i suoi clienti a impegnarsi con loro, poi quando hanno perso tutto lei gli ha restituito i soldi? È vero, ma io non li ho spinti a impegnarsi con Lehman, nel senso che abbiamo venduto questo servizio dove c'erano le obbligazioni Lehman di una banca e noi dicevamo: il rischio è a carico vostro. Ma la parola banca cancellava la parola rischio, non esisteva. Certo. E quindi, per le ragioni che ha detto prima. Esatto, quindi io mi sono messo nella panni dei risparmiatori e ho detto: beh, io gli ho detto che era una banca ed era una banca, quindi non potevano capire che c'era il rischio. Ecco. Quindi me ne assumo la responsabilità. Quindi per rispettare la parola data, insomma. Bravissimo. E quanto vi è costato difendere la credibilità? Ci è costato 160 milioni a carico degli azionisti. Dei due azionisti. Suoi, insomma. Sì. Miei suoi e di Berlusconi. E di Berlusconi. E dopo avete guadagnato? Moltissimo, perché abbiamo creato molta credibilità. Noi siamo stati la banca che ha salvato i clienti dal fallimento di un'altra banca. Più di così. Più di così non si può fare. Senta, signor Doris, c'è anche domani. È una frase che l'ha guidata nella sua vita, ho letto. E ho letto che l'ha detta suo padre. Quando è che l'ha detta? Era a fine maggio del 53, Giro d'Italia, tappa Auronzo Bolzano. Fausto Coppi, di cui ero tifoso come fanatico, mio papà, doveva essere il giorno della gloria. In realtà stacca Koblet sul Sella, ma poi Koblet lo raggiunge maglia rosa e alla radio dice: Coppi afferma: sono contento di essere secondo di fronte a così grande campione. Allora c'era una rivalità con i Bartagliani terribile. Tremenda, sì. Eravamo all'osteria pieno di gente, i Bartagliani che ci prendevano in giro. Io avrei pianto volentieri, ma non potevo farlo. Allora ci siamo avviati verso casa e mi era caduto il mondo addosso. Mio papà mi mise le mani sulle spalle e mi fermò, e guardandomi negli occhi mi disse: Ennio, ricordati, c'è anche domani. E il giorno dopo c'era lo Stelvio e Coppi attaccato ha vinto la tappa e il giro. E quindi ha capito che era vero che c'è che domani. Vero. E sì, e questa frase si è impressa a fuoco. Gli è rimasta proprio. E mi ha guidato per tutta la vita. Senta, lei uscirebbe dall'Eurozona? Guardi, l'euro aveva grandi possibilità, la realizzazione non è stata fatta nel modo corretto, altrimenti che non sarebbe... cos'è che si è sbagliato più di tutto? È molto semplice, le faccio un esempio stringente. C'era allora il governo Prodi, pensi che Prodi avesse fatto una legge in cui diceva l'Emilia Romagna, la mia regione, ha meno burocrazia, tasse più basse, l'articolo 18 lo cancelliamo solo per l'Emilia Romagna. Tutto il resto delle altre regioni che avrebbero fatto si sarebbero ribellati. Naturalmente. Ecco, abbiamo aderito all'euro, non ci siamo resi conto che la, che la Germania aveva fatto così. No, che la Baviera diventava italiana certo. E l'Emilia Romagna e il Veneto tedesca avevamo la stessa valuta, ma non le stesse leggi. Regole, quindi infatti. Aderire all'euro voleva dire modificare tutto. Ne non avevamo è la coscienza? Non è capitato. No, neanche oggi. È come per il bail-in. Esatto. Ecco, l'economia italiana adesso è il fanalino di coda dell'eurozona. Ma per lei è più colpa degli imprenditori italiani o dell'euro? Allora, gli imprenditori italiani sono straordinari. Non è l'euro, ma è come è stato realizzato l'euro all'interno di un'unione che quello è solo monetaria ma non politica. Ma i piccoli medi imprenditori italiani, come si può fare per aiutarli a vivere nel mondo globalizzato? Guardi, fra le tante cose sbagliate ce n'è una che il governo ha fatto giusta. E che sono i piani individuali di risparmio, dove dà dei vantaggi fiscali sia sui redditi che sui imposti di successione, più che il denaro vada investito direttamente nell'economia italiana. Questo è stato fatto 25 anni fa in Inghilterra con un successo enorme. Negli Stati Uniti 50 anni fa. Noi oggi cominciamo a poter mandare il denaro verso la piccola media industria. Questo farà la differenza. Senta, Alessandro Profumo, che era l'ex banchiere, nel 2012 ha detto che la crisi ci fa capire che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. È vero? È vero in parte, perché il peso dello Stato italiano sugli italiani medio è troppo alto. È molto alto rispetto al peso dello Stato tedesco sui tedeschi. Lei dice di essere a favore delle raccomandazioni, cioè che però lei le chiama non raccomandazioni, ma le chiama referenze. Perché? Cosa perché vuol così dire? Le guardo. Qual guardo, è la differenza? Ecco, io guardo chi mi fa la raccomandazione, che persona è, se è una persona che è di mia fiducia, e guardo che cosa mi dice del raccomandato. Certo. E poi vado a confrontare quello che mi dice col curriculum. Quindi è un aiuto a scegliere. L'aiuto a scegliere nel curriculum, esatto. Insomma, sì. Ma è vero che per lei Berlusconi è meglio di Bill Gates? Certamente. Perché? Perché vede, Bill Gates è un uomo straordinario che ha creato Microsoft, eccetera. Sì. Berlusconi ha creato, è stato il numero uno nel settore immobiliare, costruire le città con un'innovazione incredibile. Si è messo nella televisione, ha fatto cose incredibili. Si è messo nel calcio, ha fatto cose incredibili. Io non ho mai visto un imprenditore così poliedrico come lui. Per fortuna non ha parlato della politica. La politica, lui si è prestato alla politica pagando personalmente in maniera esagerata. Senta, ma cos'ha di speciale in assoluto Berlusconi? Guardi, io l'ho scoperto il giorno che l'ho incontrato a Portofino. Gli ho presentato la mia idea. Lui mi ha fatto tre domande. Alla terza domanda sembrava che conoscesse il mio lavoro meglio di me. Una mente capace di impadronirsi di cose nuove e andare all'essenziale e innovare, quindi, come non ho mai visto. Senta, nel 94 lei era quelli che cercavano di convincerlo a non scendere in campo? Guardi, io ero spaventato, però ho detto se lui ha deciso di farlo, chi gli fa così cambiare idea? Senta, lei ha detto se fossi inglese io avrei votato per la Brexit. Perché? Perché è un modo per protestare per una... Io sono un europeista convintissimo da sempre, ma così come è stata costruita l'Europa, male. Tanto è vero che oggi ci sono i famosi movimenti contrari all'Europa che 15 anni fa non c'erano. E quasi in America per Trump avrebbe votato? Trump è un grande cambiamento rispetto a quello che è successo finora. Vede, il mondo oggi sta crescendo meno che nel passato. Anche nei momenti di sviluppo. Perché? Perché la pressione fiscale nel mondo piano piano è aumentata. Questo, secondo me, darà una svolta, o almeno quello che mi auguro. Al referendum ha votato no? Al referendum ha votato no. È pentito? No. No, perché? Perché non ha paura dell'instabilità che deriva da una legge elettorale proporzionale? Ma guardi, oggi secondo me è l'unica possibile. La legge maggioritaria qualche anno fa sarebbe stata l'ideale e non saremmo in questa situazione. E adesso, ma maggioritaria, perché non più? Perché ormai ci sono troppi protagonisti e finirebbe chi ha il 15-20% per comandare. Ma lei pensa che Renzi e Berlusconi si ritroveranno o no? Io penso che prima o poi saranno costretti. Cosa pensa di Renzi? Penso che è un signore molto in gamba, visto quello che è riuscito a fare in così poco tempo. Senta, ma che l'euro fosse questa sciagura di cui adesso tutti parlano non si poteva capire prima? Sì, certamente. Ma lei ha detto sono un europeista convinto, ma di quale Europa è convinto lei? Di un'Europa senza frontiere, dove ci siano le stesse regole per tutti, ma dove c'è uno Stato centrale come negli Stati Uniti, un'Europa federale. Federale. Vede, Trump prende voti in Alabama e in Alaska. La Merkel, che comanda perché non c'è un governo centrale, li prende a Bonn e a Berlino, certo. Non a Roma, Madrid o Parigi. Certo. Quindi se lei prende delle decisioni che sono nell'interesse dell'Europa, se sono anche della Germania, le prende. Se sono contro la Germania, non le prende. Senta, ma è vero che lei viaggia sempre con un rotolo di soldi cash in tasca, di banconote? Sì. Perché? Perché, vede, quando ero ragazzo, io avevo le tasche bucate, proprio non avevo mai soldi. Quindi avere un po' di soldi in tasca, e sono arrivati dopo i 20 anni, quando ho incominciato a lavorare in banca, pochi, ma sono arrivati, mi dava sicurezza. Oggi non li uso, perché uso le carte, certo, di credito. Però li tiene l'abitudine, la sicurezza. Senta, dopo tanti anni ha capito qual è il segreto per essere un buon venditore? Certo. Essere trasparenti, dire a chi si è di fronte quello che si ha nel cuore. Cioè la verità. La verità. Ma lei crede in Dio? Sì, sono credente. Senta, le faccio un'ultima domanda. Lei ha detto, io non sono diventato ricco perché ho rinunciato ai miei principi, ma sono diventato ricco perché li ho seguiti. Certo. Cioè? Io credo che il miglior modo di essere egoisti è essere altruisti nel lungo termine. Tu fai l'interesse di chi ti sta di fronte e la riconoscenza è di questo mondo. La riconoscenza è di questo mondo. Certamente. Fantastico. Grazie, signor Prego. Doris, grazie. La riconoscenza di questo mondo, un finale forte, quello di Doris, Mario. Da Doris, da Doris. Un visionario concreto. Concreto, molto. Ma anche molto ottimista. Molto ottimista. Che titolo faresti? Veramente fatto una rivoluzione. Ma io farei Tempi Doris. Tempi Doris, carino. Un Kleinburg così. E tu, Pietrangelo? I Silvio sono due, virgola, quello pazzo è Doris. E quindi siccome il mondo è dei folli, è fatta. Comanda due, lui. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità.